voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, oh, oh. Scegli, oh, oh, prima su due e poi diventano tre, no? No, quattro. No, su tre l'ho scritto io, volare, oh, oh, cantare, oh, oh, oh. Ah, su quattro, veramente. Perché poi me le dimentico, scrivo tanto che alla fine... E poi dopo fa... Oh, oh, oh, oh, e volare, volare, volare, volare, volare, più in alto di cielo, ma ancora più su, mentre il mondo cammina e si tinge di blu. I would sleep all day in my van in the pecan grove until I woke up all alone today by the side of the road. Now I'm climbing Faith Mountain with a broken back. I got my job at the fireworks factory. Found the letter in the mud that she said would half explain, but the words got washed away in the pouring rain. Now I'm climbing Faith Mountain with a broken back. Walk 5 miles down the road to the filling station. Got a cloud hanging over my head like a shroud of desolation. Feel them hexes and sexual psycho-complexes from my past. Coming back with the terrible vineyards in search of my sorry ass. Mountain with a broken back. I got my job at the fireworks factory. I see the grade in the hill of the head, man, it sure looks steep. I can't kill with the wolves, but I sure as hell ain't gonna die with no sheep. Esiste una città che si chiama Hellwood, population 3, così è scritto sul cartello d'ingresso alla città. Solo 3 abitanti, Johnny Dowd, Jim White e Willie B, sono questi i 3 abitanti del progetto Hellwood che ha aperto la terza parte di Eclettica. Terza? No, è la seconda parte di Eclettica. È la seconda parte di Eclettica, sì. Mi ci è voluto un attimo per riprendermi. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, Giulio at RadioRockFM.com, myspace.com/eclettica, l'altro indirizzo internet importante. Il tutto è disponibile in varie forme, in diretta o in differita, via etere, via internet, via satellite, via podcasting. Se andate sul sito di Rock FM o anche su MySpace, lì dovreste trovare più o meno tutte le istruzioni. Forse su MySpace non ho messo quelle del satellite, a ben pensarci. Potrei aggiungercele, sì. Comunque, ritorniamo al brano che ha aperto Eclettica di questa sera. Hellwood, il nome del progetto, che ha raggiunto un risultato completamente diverso rispetto a quello per cui originariamente si erano trovati in una stanza di New York i 3 musicisti già qui sopra citati. Doveva essere un disco di cover dei Wall of Voodoo e invece è venuto fuori un disco di canzoni originali. Fireworks Factory è questo il titolo del brano che ci siamo ascoltati, da Chainsaw of Life, che esce per un'etichetta che dal nome sembra essere tedesca ma invece è olandese, Munich Records, questo è il nome dell'etichetta. Inizio del tutto statunitense perché si passa ad un'altra band il cui nome è The Handsome Family, che proviene da Albuquerque, New Mexico, e incide per la Loose Music. Arrivati al 7º disco, sono la band di Brett Sparks, di nome fanno The Handsome Family, e con Last Days of Wonder sono usciti con un disco di sole canzoni d'amore. Sole canzoni d'amore, e noi ci ascoltiamo la traccia numero 3 di questo disco. Loro sono di Handsome Family. Of town, my golden jewel.

ardentemente che la lettura di Federico Moccia non vi abbia sconvolto più di tanto, anche perché non è finita qua con la seconda parte di Eclettica, e probabilmente già avete capito di che morte dovete morire. Vi siete appena ascoltati un brano dal lontano 2001, infatti lo spazio che si è appena chiuso era lo spazio di Profumo di Eclettica, una riscoperta delle vecchie playlist di Eclettica per andare a scoprire quelli che erano i tormentoni di tante stagioni fa. Eclettica ha la sua storia, 13 anni solo su Rock FM, poi c'era una storia anche precedente, quindi mi è stato chiesto e io molto volentieri ho accettato di ripercorrerla. So Close, il brano per i 6x7 che ci siamo appena ascoltati. Invece un'assoluta novità, Primo Chef del Cosmo, e questo è il nome della band. È sempre più difficile trovare nomi che possano restare in mente, quindi i poveri gruppi devono inventarsi veramente dei giochi di parole sempre più complicati. Primo Chef del Cosmo, poi magari non è proprio scritto come voi potreste pensare, ma per questo vi aiutano le playlist. Escono per la Desvelos, vengono da Sassari. Questo è un EP di presentazione, l'EP da cui ci siamo ascoltati Estasi Pura, è un EP che non sarà commercializzato, ma regalato esclusivamente in occasione dei concerti del gruppo Primo Chef del Cosmo, così se ci volesse ulteriore conferma da dove nel 2006 i gruppi guadagnano. Giulio Capperdoni che sta per arrivare alla fine della seconda parte di Eclettica, e a questa si avvicina con uno dei brani di cui si è cominciato a parlare su MySpace. In settimana io stesso darò qualche indicazione, ma il movimento spontaneo dal basso mi è piaciuto veramente molto. Uno dei gruppi di cui si è parlato da parte vostra su MySpace è un duo francese che di nome fa Cyan e Ben. E ora sì che siamo effettivamente vicini alla chiusura di questa seconda parte di Eclettica. Ci arriviamo con un nuovo disco, Young God Records, a nome Lisa Germano, che sì, conosciamo per la sua carriera in affiancamento a nomi come David Bowie, John Mellencamp, Simple Minds, Iggy Pop e così via. Però da qualche anno a questa parte ha anche un'interessante carriera solista in cui si mette all'opera come musicista. Lei suona indifferentemente violino, piano, tastiere e chitarra, ma dove mostra una voce che non è niente male. In The Maybe World, il titolo dell'album, invece il brano è Too Much Space. Eclettica, fine della seconda parte.